Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La pressione deve essere tutta dalla parte del Real Madrid. I campioni del mondo sono loro, i campioni d'Europa sono loro. La squadra più ricca del mondo sono loro, quindi è normale che il turno lo passino loro. Noi abbiamo il compito di metterli in grandissima difficoltà. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa. Il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto. Porto una cartolina di riserva. Questo delle partite anche ho segnato qua, mi sa, una volta. E quindi bello anche perché... questi tifosi sono bravi, sono sempre con la squadra, quindi è un campo bello per giocare. È New York, stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, ostere e canzoni. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa commence, perché vado a farmi, ma non... La partita per noi è quasi impossibile, visto che loro segnano da 46 partite consecutive, ma potrebbe diventare anche difficile. Per loro non sarà impossibile, può darsi che gli faremo girare leggermente i coglioni. È New York, è New York, è New York, è New York. L'ho aspetta tutta la città, già si sente. E come ho detto, dobbiamo godercela. Come se la dobbiamo godere i nostri tifosi, perché sicuramente faranno un grandissimo tifo. E urlo dei Champions si sentirà, penso, fino a Torino. Allora sarà un spettacolo puro. Sarà un spettacolo puro. Credo che il riferimento all'urlo che si sente fino a Torino non sia affatto casuale. Voi che ne dite? Stiamo contando le ore, i minuti, i secondi, 14, 12 e 03 in questo momento. Alle 15 aprono i cancelli del San Paolo. Giorgio De Luca in fibrillazione, il nostro autore. Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari malatissimo in redazione. Stiamo aspettando l'arrivo di Pierluigi Pardo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per partecipare a questa vigilia bellissima, tutto sommato bellissima, comunque vada bellissima, di Napoli-Real Madrid. Poi parleremo anche di closing vari, avremo delle Iene nella seconda parte del nostro programma. Sentiremo i motori, sentiremo un suono in uno dei locali storici della musica milanese, questo sempre nella seconda parte del nostro programma. Avremo Pierluigi Pardo ho tanta fame, mamma mia, che te ordino, ma anche un panino. No, adesso alle 2:30, tanta fame. Povero Pierre, adesso. Vuoi che mando qualcuno a prenderti? No, una carbonara lo faccio, perché ho il volume altissimo. D'altra parte, adesso yep. Visto che ti voglio molto bene, saluto Jaime Rodriguez, che non è giocatore del Real Madrid, ma è un collega del mondo che è a Napoli. Ciao Jaime. Ciao, mi sei? Ciao, benissimo. Che stai mangiando? Tu che credi? Eh? Tu che credi che stai mangiando a Napoli? Ma di legno e Napoli? No. Allora provo. La pizza? Pizza? Sì. Pizza. Devo provare. Ieri ci ha offerto prosciutto. Prova lo scarpariello. Scarpariello, una pasta col pomodoro, con la mozzarella, buonissima. Oppure anche dello De Luca, già. Qualche temperatura c'è? Fa caldo? No, qui no, credo sembra il nord della Spagna. Allora poi potresti fatti fare una bella pasta patate e provola, allora, se fa freddo. Ci sta. Buona. Ascolta, ti chiedo un piacere. Se stai parlando con il viva voce, ti rubiamo solo pochi secondi alla pizza. Puoi toglierlo? Comunque, scusa, io... Per il viva voce? Sì. No. Allora... Il telefonino normale? Normale. Senti, alle 3 aprono i cancelli del San Paolo. So che questo ti ha sorpreso un po'. Fra 40... Per me è incredibile, non ho visto questo né nella inaugurazione dei Giochi Olimpici né nella finale della Champions, nessun spettacolo sportivo ho visto una cosa del genere. Credo che per una misura di sicurezza, perché la gente piano piano va entrando al stadio, ma per noi gli spagnoli è troppo sorprendente, perché la Spagna si apre gli stadi 2 ore prima. Sì, e si arriva, all'ultimo, esatto. Una cosa che colpisce molto gli stadi spagnoli, che si riempiono negli ultimi minuti. Sì, incredibile, aprirlo così tardi, alle 3 del pomeriggio, è una cosa vergognosa. Come si fa a fare? Bellissimo! Ho fatto la controbattuta sul fatto che la tardi De Luca, ma ha capito che è uomo del sud, ma ha capito. Aprirli alle 11 direttamente. Che, passando alla parte tecnica, che cos'è in Spagna che fa paura? Paura forse è una parola grossa, però insomma, che cos'è che a Madrid temono del Napoli? Te dico veramente che ogni minuto che passa la paura cresce, è veramente una sensazione per l'altro. Si respira la città, io credo che il stato è buono, è il Real campione d'Europa, è Real, credo che futbolisticamente è migliore il Napoli, ma è certo che da che siamo tornati in Napoli dalla tortiera, ci sta impegnando un po'. Mai ho visto con un 3-1 qui tutta la gente, i camerieri, i compagni della stampa, tutta la gente ti fa il 2-0 e ti dice che ti fai il quarto di finale, e questo non l'ho visto né in Manchester né in Monaco né in Barcellona. Io dico che il 2-0 è un risultato molto molto difficile, perché credo che il Real Madrid segnerà, ma lo scopriremo vivendo. Buona pizza, buona pasta con la provola, patate provola. Se però solo provola, se fa freddo, oggi qua ci sono 18 gradi a Milano, qua oggi è proprio da... È primavera. Sì, no, sto pensando che cosa, perché io ho una fame. Bene, allora abbiamo 800 24 00 24. Abbiamo, prima del traffico, voglio farvi sentire una cosa, una cosetta. Il cuore si batteva, non chiedersi perché, il tempo è passato. Sotto Palazzo Caracciolo, questa notte, tifosi napoletani. Ci sta, dai. Però hanno smesso presto, poi hanno... No, ma in Spagna... Alle 4, alle 5. No. A luna. In Spagna esagerano, scrivono tutta notte, invece a luna possono avere tutti a casa. Ma poi mi diceva ieri sera l'ottimo Micedi, che era collegato per Tiki-Taka davanti al palazzo, che in realtà le stanze che sono state prese sono tutte verso l'interno, quindi insomma, hanno dormito, penso, benissimo. E credo che sia stato fin qui tutto chiaro, che la giornata chiave oggi, no? Da ogni punto di vista, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma insomma io sono particolarmente ottimista, particolarmente fiducioso, e penso che per ora insomma il tratto principale sia l'allegria di una città che vive questa partita, la vive con curiosità, ovviamente con tifo, con rivalità nei confronti del Real Madrid, ci mancherebbe altro, ma anche con ammirazione. Ecco, se dovessi fotografare da tutte le cose che da ieri mattina ci arrivano su Premium, dai giornali, dalle radio, da Napoli, il sentimento prevalente mi sembra questo, un misto di ovviamente di voglia di vincere attesa, questa partita, di attesa, di allegria, però, e di ammirazione, però anche di ammirazione. Questo credo che abbia colpito i giocatori del Real Madrid. C'era un tweet molto bello di Benzema, molto bello della sua semplicità, non semplicemente dire che bello, siamo qui, un saluto a tutti i napoletani, insomma. Sai, nel calcio spesso il livello di follia è tale che anche le cose più banali, quello più semplici, che, diventano quello che mi aspetto rivoluzionario. È una grande festa di calcio. Traffico. Andiamo. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Convocati. Tu lo sai, Pierluigi, che io ti voglio molto bene, no? Certo, lo sai, ne sei certo. È reciproco. Allora, una leggenda dello sport napoletano, Pino Porzio. Più trofei 50, che anni, appena compiuti 47. Ciao Pino. Ciao, ciao, ciao a tutti. Antonio Giordano, buongiorno. Me ne vado, ragazzi. Meno trofei che anni, ah, Antonio Giordano. Antonio Giordano, no, purtroppo sai. Più anni, 50 gli anni e 47 i trofei. 50 gli anni e 47 i trofei. Vabbè, ma che adesso per due anni non sottilizziamo. Fai un paio di triplete nei prossimi due anni e vai 53 a 52. Bra, facile sorpasso. Era un invito, no? Antonio Giordano, io ho soltanto gli anni, ragazzi. Vado via, ciao, Antonio. Ciao, Pino. Io ce l'ho 43 ormai. C'ho un fisico. Io 49, vabbè, ho capito, fatto tutto questo per dire che sono il più vecchio, cioè, ne ho 56. Va bene, adesso abbiamo reso edotti tutti i nostri ascoltatori sulle rispettive età. Ci credete? Quanto ci credete? No, aspetta un attimo, che stai mangiando, Antonio? Vabbè, ma il polipo d'Europa, basta, ma non stilici, ma che cos'è? Sono entrato che avevo fame. Qua c'ho Poldo dell'Alto Adige che mi manda dei fumetti con dei panini. Io ti voglio bene, Poldo, e saluto tutto l'Alto Adige, però insomma, voglio dire. Jaime stava mangiando la pizza. E vabbò, allora siamo gli unici che stanno qua a stecchetto. Poi, io ho detto solo il miglior polipo d'Europa. Sì, ti ringrazio. Ci credete stasera? Polpo non polpo. Ci vorrebbe il polpo qui per esatto. Illuminarci. Ci crediamo. Se parliamo seriamente non si può dire. Se parliamo emozionalmente è chiaro che bisogna crederci, perché bla bla bla, tutto può succedere, il pallone è rotondo. Ci sono delle cose che inducono a crederci, ed è la capacità del Napoli di essere squadra, ed è tornato adesso all'Olimpico, ed è la capacità del Napoli di segnare quasi sempre. Ci sono cose che ti inducono a pensare, vabbè, tutta una bella favola, è che loro sono il Real Madrid. Ma però è comunque 55-45 una bella favola. Sì, resta una gran bella favola. Ma 55-45 è la percentuale? Sì. Mi sembra alta. Io dico, dico 70-30. Io dico 70-30. Pino Porzio, di grandi vittorie se ne intende, anche di grandi imprese, magari anche da sfavorito se ne intende. È stato a Madrid, questa sera la guarderà in famiglia, no? Pino Porzio, con amici. Sì, sarà una bella sfida, e chiaramente favorito Real Madrid per il semplice fatto che c'ha non solo i due gol di vantaggio, ma arriva con la forza e la consapevolezza della grande squadra. Loro sicuramente non avranno paura di giocare davanti a 60-70 mila spettatori, però nel calcio nulla è scontato, e soprattutto il Napoli ha dimostrato anche a Roma di avere la forza, la capacità di poter ribaltare il pronostico. È difficilissimo, sappiamo tutti il potenziale offensivo del Real, però in una partita secca tutto può accadere. Pino, 47 trofei tra giocatore e allenatore, avrai vinto qualche volta da sfavorito, immagino, ma qualche partita impossibile. Tante volte c'è anche più gusto, bisogna dire, ecco, però il problema è che dall'altra parte c'è una squadra abituata che difficilmente si può spaventare davanti a questo pubblico. Però il Napoli ha i mezzi tecnici, perché c'è gli attaccanti veloci, l'ha dimostrato anche a Madrid, perché se Mertens mette la palla dentro 3-2 è un risultato tutt'altro che da buttare. Io credo che con la spinta emotiva del pubblico, l'entusiasmo, ma ci vuole anche la freddezza, ecco, questo è il rischio più grande. Certo. Sappiamo in queste sfide doppie che c'è l'ansia di voler recuperare, magari fare un gol subito, però con questi avvoltoi, è il caso di dire, là davanti bisogna fare molta attenzione a non sbilanciarsi. Sì, Pierluigi spesso ha insistito giustamente sull'abitudine del Real Madrid a queste partite. Sì, io non credo in un 2-0, onestamente, credo in qualcosa di diverso. Io credo, se devo credere alla qualificazione, credo più a un 4-1 che a un 2-0. Anche sì, se, anch'io. Insomma, parlare di 4-1 insomma, fa un po', no? Fa un po' impressione. Però ecco, 2-0 è una strada stretta. Sono anche venirci ad arrestare. Sì, no, vabbè, ma io il Real è favorito, penso che siamo tutti d'accordo. Però è bello esserci, è bello giocarla. Formazione, Antonio, che sensazioni hai? Tanto ci sono i non convocati. Non convocati sono Tonelli, Strinic, poi Pavoletti, Pavoletti, Giaccherini, Giaccherini e Chiriches. Esatto. Formazione? Secondo me rispetto a Roma ne cambia due. Diavara in mezzo al campo e Zirinski sul centrodestro, sempre in mezzo al campo. Poi la stessa difesa e lo stesso attacco. E se non ne cambia due, ne cambia uno. Vedete chi? Non è facile farlo allenatore del Napoli oggi, non è facile farlo in una partita del genere, non è facile farlo in presenza di una squadra che ha alzato il proprio contenuto tecnico e anche agonistico, con l'irruzione di Rogue, che devo dire è stato veramente strepitoso tanto a Roma quanto allo Juventus. Però scusami Italia. Antonio, perché non resisto. Allora però se Rogue è stato strepitoso, ed è stato strepitoso, forse un piccolo fondo di verità, al di là della inopportunità, sì, del tempismo sbagliato, no? Di quella dichiarazione, del fatto che fosse pubblica e non privata, però forse un fondo di verità c'era nella sostanza di quello che diceva De Laurentiis? Credo di sì, ma credo anche di sapere, come lo sai tu, che insomma quando sposi dei progetti tecnici così diversi, nella loro diversità ci devi mettere anche queste variabili che appartengono all'allenatore. Pino è una leggenda, non lo dico mica per ruffianeria, e quindi sa quali sono le implicazioni di carattere anche emozionale, e le ha vissuti da una parte e dall'altra, no? Quindi come giocatore magari, non dico subendo, ma vivendo la personalità e le scelte dell'allenatore, e dall'allenatore poi imponendo, senza voler scendere nella dittatura ovviamente, imponendo delle scelte. È chiaro che se c'è Sarri devi subire quello che è un metodo diverso. Però sono convinto come te, forse Rogge aveva imparato un po' prima questo calcio, e devo dire che comunque in tutto ciò rientra un'altra cosa. Se il Napoli dovesse giocare con Rob Diawara o anche Zielinski Diawara, avrà in mezzo al campo due ragazzi che assieme fanno molto meno dei miei anni e anche dei tuoi, parlo. Sì. Cosa risponde Vino Porzio a quanto ha detto Antonio Giordano? No, io devo dire che alla fine l'allenatore conosce i propri giocatori, sicuramente non fa delle scelte contro se stesso, quindi penso che le dichiarazioni a fine partita, ne abbiamo già discusso, siano state inopportune, magari non lo riteneva pronto, vista anche la giovane età e l'esperienza, forse anche abbinato alla presenza di Diawara, che comunque era giovanissimo e ha avuto il coraggio comunque di metterlo dentro al Bernabeu, magari ha pensato che in quel momento non poteva permettersi il lusso di mettere due ragazzi giovani in mezzo. Io penso però che Sarri, che ha mille qualità, mille, e lo ripetiamo perché sennò si parla solo del piccolo aspetto negativo, sia uno che tendenzialmente ogni tanto abbia bisogno di stimoli, in questo caso un stimolo esterno, quasi un'imposizione, sì, comunque un suggerimento da parte del presidente, altre volte sono stati degli infortuni. Lui è uno che c'ha i suoi, lui è uno che va dritto per la sua strada e che non fa turnover, questa è la verità. Ma l'allenatore deve avere le sue idee, deve essere anche convinto, probabilmente anche nell'errore, esagero. Però non credo che se lui avesse creduto nella possibilità che Rogge potesse cambiare al Bernabeu l'esito dell'incontro, l'avrebbe utilizzato. Non tanto al Bernabeu, io faccio un discorso in generale. L'anno scorso non poteva entrare prima della squalifica di Higuain. Se andate a vedere il minutaggio di Mertens, era credo 400 minuti in 30 partite. Mertens era uno che entrava 20 minuti a partita sempre, è un giocatore che quest'anno ha fatto più di 20 gol, quindi di che stiamo parlando? Cioè, non ce l'ha, sta cosa non ce l'ha, ma forse teniamo, anche perché teniamo anche presente, scusatemi se intervengo, che lo stesso Sarri, che è un grande tecnico, comunque era la prima volta probabilmente nella sua carriera che giocava una partita di questo livello, quindi bisogna anche tenere presente questo, non è un aspetto secondario, gestire situazioni del genere ci devi essere abituato, o perché l'hai fatto da calciatore o perché hai esperienza di allenatore di quel livello, quindi che Sarri sia un ottimo tecnico, ma questo assolutamente non lo discute nessuno, a quell'approccio lì, per cui Diawara sta fuori per due mesi, poi esordisce, non ne va più. Adesso Tonelli ci ha avuto il suo momento, il periodo blu di Tonelli c'è stato, ma ripeto, è un approccio, poi alla fine contano i risultati e la qualità del gioco del Napoli è indiscutibile, quindi non è semplicemente una caratteristica. Quello che secondo me De Laurentiis avrà pensato è che forse per allenare una grande squadra, con gli impegni, con le pressioni, c'è bisogno di, di una rotazione, sì, un po' più scientifica. Che poi abbia scelto il modo peggiore per esprimerlo, su questo siamo tutti d'accordo. Io vi saluto, Pino Porzio, a beneficio del mio amico Pardo che si mangia a casa Porzio stasera durante la partita. Stasera mangiamo chiaramente uno spaghetto al pomodorino fresco. Fresco. un po' di pesce sperando che il Real Madrid non ci intossichi né la cena e la serata. Beh, hai detto due cose fra l'altro mi piacciono poco, sì. due cose che non le mangio. Sono allergico al carboidrato, mi fa male. Lo vedo il pomodoro magari del piennolo. Bravo. Sta Giordano, tanto davvero Giordano, tanto davvero. Tevec, se no si offende il Real Madrid, blasone che hanno, bisogna onorare. Io dico solo una cosa: per me Antonio Giordano fa la fine del polpo alla Luciana. Ciao, alla Luciana. Ciao ragazzi. Grazie Antonio, grazie Pino Porzio. Tanta fame. Pardo scherzava quando ha detto che Napoli vince 4-1, lo pensa davvero? No, non penso sia l'ipotesi più probabile, però faccio fatica a immaginare un 2-0, quindi se devo immaginare una strada, devo pensare a una notte perfetta, devo pensare a una notte tipo Milan-Manchester United di qualche anno fa. Cioè la caduta di un impero a fronte di una grande prestazione, è difficile, ripeto, per me è 30-70. Grazie. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Che hai mangiato per Luigi? Panino. Panino com'era? Buono. Accettabile. Panino classico che fanno qui con formaggio e insalata. Formaggio e insalata. Vegetariano. Bevanda zero. Cioè, bevanda calorie zero. Calorie zero, siamo dietro. E ottimismo, Grande ottimismo. 800 24 00 24 per la vostra voce, per far sentire la vostra voce, messaggi 349 238 6666. Occhio che Pardo li sta tenendo d'occhio tutti, SMS e WhatsApp. Fate i bravi. Tra poco una illustre penna ai nostri microfoni, più tardi invece suoni da un locale storico di Milano con una voce che conoscete molto bene, e parleremo di Iene. Che ne pensi del presidente Palermo? Che ne devo pensare? Per ora niente, non bisogna lasciarsi influenzare dalle apparenze. È chiaro che ha avuto una traiettoria, direbbero gli spagnoli, abbastanza irrituale per diventare presidente della società di calcio, però aspettiamo, insomma. Sì, non lasciamoci ingannare. No, ma l'unico vero punto è di natura appunto, adesso Merinazzo sarà già al lavoro, è di natura economica, cioè capire chi c'è dietro, cioè la figura, ovviamente è una figura eccentrica che ha fatto nella vita tante cose del mondo dello spettacolo, ma pure io se diventassi presidente della squadra di calcio poi magari farebbero vedere quando stavo con David Luiz. Oppure le foto col costume. Lui poi, insomma, ha fatto cose roba, Lui ha fatto cose un po' più ardite, sicuramente. Un po' più ardite, come anche ha raccontato il dottor Cruciani ieri sera. Quindi, insomma, è abbastanza, ripeto, il rituale. Poi avremo una Iena, un suo amico. È scaletta. Armando, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Armando. No, volevo condividere questo viaggio con voi. Siamo partiti da Monza. Stiamo andando in direzione Stadio San Paolo con un collega di lavoro. Ciao Carlo. Ciao. noi ci crediamo per questa sera. Maciniamo chilometri, pioggia, neve, ma ce la facciamo. Siamo forti, siamo il Napoli e vinceremo. Dove state? A Pescara? State passando a Pescara, sì, appunto. Pioggia e neve. Come a Pescara? Pioggia, più avanti porta neve, ma affrontiamo tutto per il Napoli. Ma come a Pescara? Ma Monza Napoli? No, sono dovuto passare per prendere un collega. Ah, vabbè, ok. Quindi non è solo Monza Napoli, se avevo un giro d'Italia. Ma si crede che ho fatto qualcosa, non ho fatto niente. Sì, no, ma certo. Silvana, classica Silvana. La sanguinara. Vabbè, Carlo, per chi tifi, Carlo? Tu per chi tifi stasera? Ah, per chi tifo? Ma che domanda è? Il Napoli. O Napoli? Stiamo scherzando. Non scherziamo neanche. Non c'è dubbio. Ragazzi, buon viaggio, in bocca al lupo, divertitevi perché certo, questa, deve essere lì. Deve essere azione a Pescara, ma io moglie, sembra un po' strano. Mando, prendo un treno. Signora, tranquilla, sì, tranquilla. Se chiama tutti i convocati, vuol dire che non ha niente da nascondere. Esatto, la Bernardini de Pace è già al lavoro. Bene. Giuseppe, da provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno. Dove si trova? Cosa sta facendo in questo momento? Io sono al mio posto di lavoro. Il suo posto di lavoro? Il computer a lavorare. Sì. La signora può stare tranquilla? Sì, tranquilla. Bene. Molto bene, sono molto bene. Dica. No, volevo commentare il fatto di Hamsik che ha detto l'urlo si sentirà a Torino. Perché ha già superato l'ostacolo Real Madrid. Lui prevede già uno quarto di finale Juventus-Napoli. Con tanto sport italiano in Europa. Ma no, io penso che ci sia sempre latente questa sfida fra appartenenze, no? Fra modi diversi anche di intendere il calcio. E anche adesso arrivano tanti messaggi e si fa veramente fatica. Tante cose che possono essere viste come delle cose meravigliose e molto romantiche possono allo stesso modo essere viste come delle forme di provincialismo. L'apertura di 6 ore prima dei cancelli è una cosa, a me piace, anche a me mi moltissimo. Diverte, mi sembra una cosa, anzi, bella. Io vorrei che però capisco pure chi ci scrive che non che è assurda, che non ha senso, che ma non è vero, perché? Perché ognuno la vede, è chiaro, quando tu sei molto abituato Pierluigi, noi abbiamo un'età per cui non andremmo alle 15 là. Poi magari ci sono, sai, i ragazzi che vanno lì, vogliono respirare l'aria di questa grande partita. Ma assolutamente, io sono favorevolissimo, però voglio dirti che molte delle cose che vengono viste con da alcuni più filo napoletani come delle dimostrazioni letterarie, romantiche, della passione per questo gioco, del calore e dell'affetto per questa città, possono essere viste altrettanto legittimamente da altri come delle forme di provincialismo, di disabitudine a queste atmosfere. Tu hai girato tutti gli stadi del mondo. Adesso uno dice 6 ore prima ma lavorano, vabbè, ma questo adesso gli assenteisti abbiamo scoperto che sono ovunque. Uno dei principali scandali era Sanremo, se non sbaglio, nella sviluppata Riviera di Ponente. Allora, io comincio la bellissima Liguria. Io comincio a salutare Gigi Garlando. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Come va? Adesso lanciamo il traffico e poi glielo chiediamo. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Tutti convocati. Ed eccoci con Gigi Garlando, finalmente, che abbiamo convocato. Stiamo ovviamente parlando di ciò che ci aspetta stasera. Gigi, chiudi gli occhi e raccontami la partita. Io all'andata proprio avevo chiuso il cervello, avevo lasciato andare il cuore. Avevo sognato proprio un Napoli che si ricollegasse al Milan di Sacchi, cioè non tanto vincere o perdere, ma prendesse il pallone e facesse alzare il Bernabeu per il gioco e non per un giocatore, no? Come era già successo a Del Piero Totti. Non è accaduto e speriamo che un po' il miracolo, tra virgolette, accada stasera, anche se anche qua razionalmente è una partita difficilissima, ma la città di Napoli stessa, la sua storia è una partita contro l'impossibile, no? Per cui tante volte ci ha abituati a andare oltre la ragione, allora speriamoci anche stasera. Sì, lui, stasera. Mi dici, ma un sospetto ce l'ho, tu da che parte stai? Qua stanno arrivando una marea di messaggi, no? Sul chiaramente tutto questo casino simpatico, casino allegro, questa allegria, questo senso di festa, queste piccole follie della gente che dorme fuori dall'albergo del Real, che va allo stadio 6 ore prima, cioè tutto questo approccio molto napoletano, no? A questa partita divide, polarizza, perché c'è chi dice, c'è chi è molto emozionato in positivo e chi dice che alla fine è un segno di disabitudine. Tu da che parte stai? No, io sto con quelli che vivono col cuore la partita. Vivere col cuore vuol dire essere allo stadio alle 3, vuol dire anche fare pazzie, vuol dire... È caduto, però il concetto è chiaro, adesso cerchiamo di riagganciarlo. Perché queste sono proprio, se ti ricordi, la vecchia... Il vecchio così parlò Bellavista, no? Sì, decrescenza, certo, sulla, sul modo di vivere, no, dalla vasca alla doccia. Ti stavo dicendo prima, non trovo nulla di perverso nel fatto che la si voglia vivere in questo modo. Non è questione di Napoli o di un altro posto. Gigi, ci sei? Ecco, no, ti stavo dicendo, secondo me una partita così, che è una partita che nel bene o nel male sarà comunque indimenticabile, ma è giusto viverla proprio in modo così assoluto, cioè, nella mia piccola esperienza di tifoso io ricordo partite belle, non so, che in cui la mia squadra del cuore ha vinto, ma più che le azioni mi ricordo, non so, di essere stato 4 ore nei distretti di San Siro a prendere l'acqua, certo. Cioè, fa parte della partita. Anche questo, viverla fisicamente così, per cui fare moralismi in questa situazione, ragazzi, secondo me è infatti c'è l'unica Garlando che non è nato esattamente a Torre Annunziata o fuori grotta, esatto. Questo mi sembra doppiamente prezioso, piemontese duro e puro. D'altra parte tutti i ragazzi abbiamo fatto follie per una donna, si può fare una follia per il calcio? Ma assolutamente. Invece tornando razionali, che dov'è la strada è stretta, no? È un viadotto di campagna, ma come è fatto questo viadotto per arrivare alla gloria? Finalmente sono stato tanto caldo nel dirti la possibilità del miracolo e anche della partecipazione, quanto invece gelidamente vedo una partita, se non chiusa, donatemelo, però veramente difficilissima. E la grande difficoltà secondo me non è tanto fare il gol, quanto proprio impedire le ripartenze di queste bestie che sono abituati, proprio hai un bail in più. E quindi, cioè, magari per un tempo ce la fai, ma appena molli la guardia, questi ti ripartono. Amsic ieri che diceva: noi non sappiamo gestire, sappiamo solo attaccare. Non dico che è una dichiarazione di resa, però non puoi attaccare 90 minuti. Ecco, la difficoltà è quella magari di fare un gol, di arrivare alla soglia del sogno, e poi appena respiri ti riparte Bale e ti fa quel gol che ti ammazza. Ecco, la difficoltà è non farli ripartire, quindi il gran lavoro che dovranno fare nelle chiusure preventive gli attaccanti e soprattutto i mediani, non far arrivare lanciato Cristiano Ronaldo contro Isai. Ma è per questo che né io né Pierluigi vediamo una partita da 2-0. Cioè, io faccio fatica ad immaginare una partita da 2-0. Cioè, o succede. Magari, però la vedo dura, sicuramente. Sicuramente il Napoli dovrebbe forzare degli aspetti. Dovrebbe quasi snaturarsi, o comunque riuscire a raggiungere una perfezione. Che raramente ha raggiunto. Anche l'altro giorno sembrava una partita perfetta quella, bravo, con la Roma, no, esatto, sembrava proprio il Napoli contro una squadra oltretutto che segna molto come la Roma, adesso esatto, magari un po' stanca, esatto. però pure lì c'è stato il quarto d'ora di sporcatura, no? Nel primo tempo hai visto quello che deve fare questa sera il Napoli, poi quando è entrato Salah hai visto anche quello che potrebbe accadere stasera con una ripartenza, per è cui chiaro, è quella la difficoltà, chiaro, però è anche vero che insomma la partita perfetta si può scappare. Io ricordo contro il Borussia qualche anno fa fecero la partita perfetta, perché per 90 minuti furono intensi, aggressivi, non li fecero mai avvicinare la porta. Ecco, però dopo quella partita lì non l'hanno più rifatta. Molto difficile. Senti Gigi, gli arbitri sono fatti un nuovo nemico, oltre a quelli storici e dichiarati, no? Napoli e tutte le avversarie dell'Inter, tutte le avversarie della Juventus, si sono fatti un nuovo nemico, cioè Abodi. Che ne pensi di questo Tavecchio bis? Ma anche qua insomma cerco di camminare un po' sulle uova, però non è stato un grande spettacolo proprio visto dal punto di vista dei tifosi. Cioè abbiamo assistito anche noi come Gazzetta, abbiamo ospitato i due sfidanti nella nostra redazione, ma se devo dire di aver ascoltato qualcosa di concreto dal punto di vista del progetto sportivo, Io non me lo ricordo. Allora, abbiamo avuto visto a Bodi che ci ha parlato soprattutto della prospettiva di costruire stadi e di diventare anche consulting per le società, quindi comunque interesse. D'altra parte abbiamo visto Tavecchio che ha avuto il voto di Ulivieri, che prima si era incatenato contro perché ha ottenuto dei posti di lavoro. Da qualunque parte la giri hai visto degli interessi. Gli arbitri che dovrebbero essere super partes, che sono stati da una parte e all'ultimo momento sono andati dall'altra. I calciatori hanno votato in modo diverso dagli allenatori, che dovrebbero essere la componente, certo, più legata. Cioè, metti insieme tutte queste cose e ti viene un po' d'avvilimento. Sì, sono d'accordo. Devo dire la verità, io penso che la prima gestione di Tavecchio sia stata meno peggio dell'inizio, ci vuole poco, perché insomma aveva cominciato malissimo, poi secondo me non è stata una gestione così negativa, così disastrosa. E certamente a Bodi, dal punto di vista quantomeno dell'immagine, avrebbe rappresentato insomma un rinnovamento anche generazionale. Però condivido insomma quello che dice Luis, non ho visto, no, appunto. Cioè, sì. Questa roba qua è arrivato, non so se vi interessa, adesso mi continua a mandare roba di cibo, ma in realtà io ormai ho mangiato un panino, quindi ormai sono un uomo risolto. Però è arrivato il menù del pranzo, non so se è vero, De Luca dice di sì, del pranzo fra Florentino Perez e De Laurentiis, ma c'è una clamorosa mancanza, che è il carboidrato. Allora, fiori di zucca farciti con ricotta, arancini di riso e crocchette di patate, vabbè, per cominciare leggeri. Mozzarella di bufala, provola affumicata con pomodorini del Vesuvio e rucola di campo con salame tipico, vabbè, per continuare leggeri. Poi si passa alla spigola, cioè abbiamo fatto fuori il carboidrato, è un fatto gravissimo. De Luca, che fai sì con la testa? È un fatto gravissimo, cioè è un... Ma è un attentato, ma la massa di Gragnano, voglio dire, vabbè, Florentino sta a dieta. Ciao Gigi, grazie. Ma c'è, ma, ciao a voi. Ma ciao, poi le verdure al vapore. Ciao Luis. Le verdure al vapore sono una cosa proprio, sono superate. Pasquale, è d'accordo con Pardo? Pasquale, sì, assolutamente. Il carboidrato mancava. Ma poi a pranzo, capisca a cena che dici. La cosa più triste è la verdura bollita, è una cosa terribile. Ma poi anche una, posso dirti, perché si parla tanto, giustamente, sto scherzando, adesso se no mi arrivano sotto gli animalisti, dei maltrattamenti sugli animali, ma scusa, ma queste povere verdure che vengono bollite, cioè è una cosa gravissima, no? Che facciamo stasera, Pasquale? Ma io sono ottimista, io però chiamavo per un'altra cosa, perché... Cioè? Pierluigi diceva che l'apertura dei cancelli alle 15 sì, sembrava un po' provinciale, roba genere. Io sono un tifoso di vecchissima data, ho 63 anni, la mia prima volta a San Paolo è stata nel 59, mano nella mano con mio papà, e da sempre il napoletano vive la vigilia allo stadio. Anche 3 ore prima, anche lontano 50 ore. Sono favorevole. Stavo semplicemente raccontando poi i messaggi che arrivavano. Tutti convocati. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Cominciamo tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Pierluigi Pardo qui con me oggi. Allora, tra un po' ci trasferiamo in un locale storico, Tempio della Musica Milanese. Poi parliamo con le Iene. Poi ti dico. Ci sono i cani che suonano, dei giornalisti? In Calcutta? Le luci della centrale elettrica? No, io te lo dico. In Zen Circus. E poi faremo un collegamento. Faremo un collegamento con il San Paolo, con qualcuno degli inviati di Mediaset al San Paolo, perché dei 114 inviati. Voglio capire. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Genta. Saluti anche a Pardo. Salve. Io sono un interista sfegatato, ma questa sera Forza Napoli. E soprattutto scommetterò una combinata. X euro, ovviamente non dico nulla. Certo. Uno, vittoria del Napoli più passaggio turno. Perché sono convinto che la cabala, la nemesi, chiamatela come volete, rimetterà di fronte Juventus e Napoli a livello europeo. Anche Champions. Non sarebbe male. Sì, non sarebbe sì. male. Sarebbe una cosa incredibile comunque, insomma, questo è un po'. Mi viene in mente quella stagione dei mille derby di Milano, ti ricordi? Che lui... Sì. No, ma sarebbe fantastico, sinceramente. Fantastico. Sarebbe una meraviglia, credo che la Juve sia abbastanza avanti, anche se poi fra una settimana a quest'ora parleremo di Juve-Porto e non si può mai sottovalutare nessuna partita, però insomma credo che oggi sia oggettivamente molto più complicata. Quindi non è vero, come scrive qualcuno, lo vedi anche tu, messaggio SMS, sì. Per il Napoli mi sa che tifano solo i tifosi, solo i napoletani. Ma no, ma per il Napoli tifa chi vuole tifare per il Napoli, noi siamo laici, come sapete. Ma è in ovvio maniera che... totale. È ovvio che la forza di un paese, noi che siamo appassionati di calcio, quindi siamo anche interessati che questo paese sia un paese che cresce dal punto di vista dei risultati, la forza di un paese, il famoso ranking, la credibilità, gli investimenti, la crescita di tutto il movimento calcistico italiano passa per una serie di grandi prestazioni, per cui razionalmente io credo che convenga a tutti che il Napoli passi sì, il turno. Ma detto poi, questo è ovvio che se uno ha più simpatia per il Real Madrid che per il Napoli, ti farà per il Real Madrid, non c'è niente. Ma che problema c'è? Il gufismo è da tutti noi accettato. Mughini no, non lo contempla nel suo, lo sappiamo, nel suo modo di vivere, ma noi sì, certamente, non c'è nessun problema. Claudio, per chi tifa lei? Io tifo per il Napoli, anche se sono juventino. Ma tipo per il Napoli semplicemente perché è una squadra italiana e mi piace del calcio e penso che il Napoli attualmente lo stia dimostrando, un bel calcio. E qui c'è anche un altro juventino, un altro milanista negli ultimi 18 secondi che hanno scritto. Ma sì. Poi c'è un napoletano che dice che questa è l'ennesima dimostrazione dell'alto tasso di disoccupazione che c'è a Napoli, stadio che si apre 6 ore prima perché la gente non ha niente da fare. La buttiamo sul sociale. Che lo stadio apre 6 ore prima, ma bisognerebbe verificare insomma se c'è già qualcuno. E poi lo verifichiamo. Siamo qua, siamo attrezzatissimi. C'è già De Luca, sta là. Allora, io voglio parlare del nuovo presidente del Palermo. A Palermo sì. È arrivata una iena. Quanto investirà nel Palermo ve lo può dire, ma quello che paga a me sono cazzi miei. Quando lei vende il suo appartamento, mica vengo a dire quanto l'ha venduto, sono affari suoi. Non c'è niente di misterioso, c'è semplicemente il fatto che il fondo sia una realtà che non ha bisogno di pubblicità, non ha bisogno di visibilità. Questi siamo e questi saremo fino all'ultima di campionato. Non ci saranno cambi di allenatore, ecco, questo ve lo posso dire. Io non sono stato cattivo, perché sono stato cattivo amministratore, perché ne pagavo 3 all'anno, per cui sono stato un cretino più che un cattivo. Sono convinto che il nostro operato non possa essere giudicato ora. Siamo al day one. Abbiamo messo in piedi un progetto che passa per tappe, passa per un passo dopo l'altro. Abbiamo sentiti Zamparini e Paul Baccaglini, from Zamparini to Baccaglini. Allora, abbiamo in linea una iena, cara amica di Radio 24, anche protagonista di un programma di Radio 24, è stato Filippo Roma. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Come stai, bell'uomo? Alla grande, sempre in giro a faticare, a far servizi. Lo so. Lucci si è candidato premier dopo che Baccaglini è diventato presidente del Napoli. Tutto si può fare, facendo le iene tutto si può fare. Tutto è possibile. Tutto è possibile, una volta che fai servizi le iene veramente puoi fare tutto. Siamo pronti sempre a tutto. E questo Lucci è vero, Premier lo vedrei bene Lucci Premier. Lucci Premier secondo me prenderebbe anche parecchi voti. Magari proprio Premier è un po' dura, perché mi sembra difficile poi con questo sistema elettorale che si accordi. Però sai, una lista Lucci secondo me è un po' di... perché è un personaggio di grande carisma, di grande... Ma i voti li prende. I voti li prende, sono d'accordo. Ma anche sì. Baccaglini aveva fondato un partito, no? Lemon Party. Per limonare limonare e ancora limonare. Dalla politica al calcio è passata. Dalla politica al calcio, ma poi sai stanotte è stato svegliato da uno di voi all'1:30 di notte, pare fosse a casa a dormire, anzi era a casa a dormire, e gli hanno invece bussato alla porta e gli hanno detto abbiamo l'audio? Gli hanno detto questo. Si sono presentati in camera mia alle 2 del mattino e mi hanno intervistato in pigiama sul letto e poi mi hanno detto: vuoi dimostrare la tua passione per il Palermo? Allora guarda, c'è un tatuatore palermitano chiuso dentro una stanza dell'albergo che è pronto a tatuarti se sei pronto, e ovviamente mi sono tatuato. Si è tatuato in tempo reale il simbolo del Palermo sul cuore. Tanto full, tatuaggio più, tatuaggio meno, vedete, c'è il corpo rivestito di tatuaggi. Ma che tipo è? Dici, tu lo conosci bene, che tipo è? Non lo conosco benissimo, nel senso che non ci esco la sera a mangiare la pizza. L'ho conosciuto alcuni anni fa quando lui per una stagione, mi sembra massimo due, ha frequentato il nostro programma. Sì. Ci ho fatto una serata una volta, tanti anni fa, e mi ricordo che... Cioè, la cosa che mi rimase impresso è che spogliandosi, perché quando va a fare le serate arriva in borghese, si veste da Iena e poi si presenta in scena, c'era sto corpo totalmente rivestito dei tatuaggi, una cosa impressionante, cioè, si vedeva più la pelle. Sì, sì. E mi ha raccontato pure che c'era questo famoso tatuaggio pitello, insomma, adesso non so se si può dire. Sì, sì, no, ma l'ha già raccontato tutto anche ieri sera. Cioè, si è tatuato il pisello. Sì. E quindi è un tipo simpatico, molto free, sì, molto amante delle donne, della bella vita, delle serate, insomma, ragazzo allegro. Ma scusa, la curiosità, che cosa raffigura il tatuaggio sul pisello? Te lo dico io, un famoso marchio di borsette delle sciure milanesi. Esatto. Io non l'ho visto, non ho voluto vederlo. Sì, è bravo, una nota marca di borsette. Quindi è fatto per invogliare. Francese? Per invogliare. Francese. Una cosa geniale. Sì. Bisogno di fare donne, sono qui il regalino per te, guarda, scarpa. Beh, veramente, ragazzi. Cioè... Vabbè, Filippo, tu che vuoi fare? Presidente del Consiglio Lucci, presidente del Palermo Baccaglini. Baccaglini, ma siccome le Iene si guadagnano un sacco di soldi, questo permette di accumulare grandi, certo, patrimoni. Sì. Io sto pensando, o mi compro la Roma, che è la mia squadra del cuore, oppure qualcosa di più prestigioso, tipo Real Madrid o Barcellona. Forse in trattativa, insomma, devo capire. Devi capire, però sicuramente una di queste. Sì, sì. Diciamo, se seguo il cuore la Roma. Sto parlando, sì, già con Pallotta, ieri sera ho già viaggiato i contatti. Benissimo. Parenti, il Mantova potrebbe comprarsi, in effetti. Potrebbe Parenti sia voglia. Parenti potrebbe diventare. Ecco, adesso perché hanno appena letto da vecchio. Parenti, storico, padre delle Iene, no? Sta, padre delle Iene. Sta sì, alle Iene, come Ricci sta a Striscia, no? Se non, no? Giusto. Bravo, sì, è il papà delle Iene. Vedi che ho studiato. Sì, bravissimo. Colui che ha fondato il programma in Italia. Va bene, quindi diciamo tu ti senti di rassicurare sulla tua conoscenza di una serata della quale non hai visto il pisello. No, non l'ha visto, non l'ha visto. Tu ti senti di rassicurare i tanti tifosi del Palermo? Sono in ottime mani? Oddio. No, mi pare chiaro di no. Va bene. Forse peggio di così è difficile. Forse peggio che Zamparini e della Serie B imminente. Forse meglio Baccaglini. Tra l'altro domenica c'è Palermo-Roma, quindi insomma subito derby. Baccaglini, Filippo Roma. Posso sfruttare la radio a Fiumicino. Faccio un appello a Paul Baccaglini, vecchio collega. Dammi il biglietto per domenica, io prendo e vengo a Palermo. Certo. Capito, Presidente. Filippo Roma, se no ti faccio una credita. Scusa, ma vuoi comprare Real Madrid? Comprati anche il biglietto, no, Filippo? Certo. Che non c'ho più soldi, appunto. Madrid, ciao Filippo, grazie. Grazie. Piacere nostro. La questa comunque, a parte l'ironia, dicendo abbastanza. Beh, Baccaglini. Sì, cioè, sta come. Cioè, siamo in un periodo di closing strani, mancati closing curiosi. E noi, sai, siamo italiani, ci piace, siamo molto fantasiosi in tutto questo. Allora, voi mi hai chiesto cosa c'è all'Alcatraz oggi? All'Alcatraz? Normalmente c'è questo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Roba che piace a noi questa. Ah sì, media. A me, media. A me piace. Media. Poi? Mi piace. Oggi invece c'è un'altra musica. Ciao Guido Meda. Ciao ragazzi. Ciao. Ex compagno di banco di Pardo. Esatto, ma oggi all'Alcatraz comunque abbiamo fatto rock, eh? Beh, abbiamo fatto cantare, guarda che qualità, grandissima qualità. Abbiamo fatto Tiki Taka qualità divisivo. Abbiamo fatto cantare Alessandro Bonanno oggi all'Alca. Immagino che abbiate dovuto forzarlo, perché Alessandro, lo sappiamo, è uno a cui non piace cantare. Poi un ragazzo schivo, un po' tipo me, è di quelli un po' timidi che bisogna forzare. In realtà, poverino, era intimidito perché non era in un ambiente calcistico, e veramente l'abbiamo un po', come dire, violentato a salire sul palco cantando, neanche in playback, la sigla che lui ha scritto e fatto su mia richiesta per la stagione del Moto Mondiale. Fatto un pezzo orecchiabilissimo, rock con un bel ritmo. Ce l'abbiamo? Non si può sentire? Si può sentire? Oddio, il titolo, eh? Il titolo, eh? Il titolo, mi chiederai di più. Mi chiederai di più. Ma quando saremo io e tu, mi chiederai di più. Merda, che freccia sul circuito di fretta. Guida, adesso lo cerchiamo. Di più. Stai massacrando. Se la volete sentire, intanto che io parlo con voi, cerco la email in cui mi aveva mandato il file. Stiamo facendo tutto proprio work in progress. Guido Meda, come sapete, è il super boss, il Paul Baccaglini, il super boss, il Paul Baccaglini della... Non ho un tatuaggio neanche per sbaglio, io neanche sul pisello, no, me lo ricordo bene Baccaglini, peraltro. Te lo ricordi bene? Sì, a media secondo faceva la Iera, me lo ricordo bene. Hai fatto qualche serata anche tu con lui, qualche serata? No. Tifosi del Palermo possono stare tranquilli. Sì, io mi ricordo che girava per Mediaset, che lavorava per le Iene, basta, mi ricordo questo, che era uno simpatico. Punto. Perché non sapevo che avesse questa potenza. Ma non lo sapevamo nessuno, neanche noi fino a ieri. Cioè... Interessante. Senti, Guido, lunga vita, un esperimento felice. Tu stai ai motori di Mediaset, ai motori di Mediaset, come Baccaglini sta al Palermo in questo momento. Di Sky. Oggi faccio un sacco di gaff. De Luca, poi esco, mi prende a bastonate in testa, però perdonatemi. Poi De Luca, oggi devi sapere, Guido, che De Luca è vagamente tifoso del Napoli, quindi oggi non parla con nessuno, c'ha un umore un po', ha intenzione prepartita. Ha mangiato la bresaola a pranzo. Cioè, lo capisco, delle cose. Al terzo strafaccione consecutivo, però essendo qui parlando tutti i giorni un'ora e mezza, ogni tanto mi scappa qualche stronzata. Guido, allora, tutti legati a Rossi, alla rossa come sempre, no? Per la stagione per la vita magari no, nel senso che a un certo punto Rossi magari fra un paio d'anni o tre deciderà anche di fare giustamente il ricco signore di Tavuglia. Fa niente, ma resteremo legati a lui per la vita, per quello che ha fatto. Resteremo legati a lui per la vita, però io faccio il tifo anche per le altre realtà italiane, soprattutto direi quelle che gli stanno crescendo attorno, tenendolo come un po' come modello e come riferimento, perché non bisogna dimenticare che comunque il famoso vivaio motociclistico che l'Italia aveva completamente perso a vantaggio della Spagna 3 anni fa è tornato in auge. Cioè, noi adesso nelle classi più leggere, Moto 2 e Moto 3, abbiamo dei piloti, dei signori piloti destinati ad arrivare in MotoGP nel giro di qualche anno. Questo secondo me è un buonissimo fatto che si verifica. Assolutamente, è un fatto concreto. In Formula 1 abbiamo il punto di domanda, perché in effetti è più difficile giudicare i test della Formula 1 rispetto a quelli della MotoGP. In Formula 1 10 kg di benzina in più o in meno, quando vai a provare, possono fare una differenza abissale, per cui la realtà di Vettel davanti a tutti non sappiamo se sia poi così confermabile quando ci sarà la prima gara. Ce lo auguriamo, nel senso che la Ferrari ha lavorato in maniera completamente diversa rispetto agli altri team, facendo una macchina decisamente più corta, che vuol dire che dovrebbe essere più agile sulle piste con tante curve e tanti cambi di direzione. Gli altri invece dovrebbero avere maggior tenuta di strada sulle piste veloci, a cominciare dalla Mercedes, per cui abbiamo un po' di punti di domanda in Formula 1, meno in MotoGP, dove la notizia sono i tanti binomi nuovi che ci sono, a partire da quello Ducati che ha imbarcato Jorge Lorenzo, mettendo tutte le fisce sul tavolo e decidendo di puntare sul migliore che c'è in circolazione per provare a vincere. Valentino si trova un rivale in casa che forse non si aspettava già a questo livello. Di Vignale sapevamo già tutto, però è arrivato lì e presto verrà eretto il muro di Berlino con il filo spinato sopra. No, io non credo. Sì, no, questo io Guido. Non credo, come sì. diceva l'onorevole. Questo Racco. Non io, credo. Questo io non credo, nel senso che potrà erigersi il muro di Berlino, ma non fisicamente, nel senso che magari si ignoreranno. Credo che in questo momento la cosa migliore che stia facendo Valentino, lui stesso l'ha dichiarato, è quello di considerare il fatto che Vignales, per quanto è veloce stato, gli sta dando l'idea di dove può arrivare la Yamaha. Lui, Valentino, dice: se io non avessi avuto Vignales in questo momento, probabilmente penserei che il meglio che esce dalla Yamaha è quello che succede certo. a me. Invece dice: mazza, ce n'è ancora, quindi ci devo arrivare. È un modo di vedere le cose positivo, che una volta forse non era di Valentino, quando dominava in lungo e in largo Perché, le volte perché non ne aveva bisogno. No? Esatto, però adesso invece che ne ha bisogno e che deve puntare più magari sull'esperienza che non sulla freschezza dei vent'anni, tutto fa brodo. Beh, quindi quest'anno abbiamo... Ma il futuro delle due ruote italiane, da qui a 3-4 anni, com'è? Allora, di qui a 3-4 anni direi che se diciamo 3 forse abbiamo ancora Rossi, se diciamo 4 penso che non ce l'avremo più, magari farà il commentatore con noi su Sky. Però il discorso che ti facevo prima sui giovani che crescono è destinato a portarci nel giro di 3 o 4 anni ad avere qualcuno di questi in MotoGP, e ci sono, vada bene, dei gran bei talenti che stanno crescendo. Un nome su tutti. Un nome su tutti, io parlo un po' con l'impeto dell'affetto che mi lega a un ragazzino che ho visto crescere da quando era piccolo, e dico Nicola Bulega, un bel carognone, velocissimo. Però dico anche Enea Bastianini, che tra i giovanissimi è proprio molto talentuoso, dotato, completo, sa attaccare, sa difendere. Fenati si è un po' perso? No. Penati si è un po' perso, nel senso che l'anno scorso, dopo l'interruzione del rapporto con lo Sky Racing Team, si è fatto mezza stagione fermo, però è tornato, nei test è andato forte, è agguerrito, non essendosi peraltro allontanato dal team con grande serenità, probabilmente ha dentro anche quella punta di rivincita che lo metterà nella condizione di magari fare anche un po' più di quello che può fare. E per cui me lo immagino anche lui tra i candidati. Senti, un giorno vieni a trovare me, Pardo, qui? Molto volentieri, ho intanto trovato la sigla di Bonanno. Hai trovato? Mandiamola salutandoti. Aspetta, però devo fare uno strano numero, devo mettere il tablet vicino. Vai. E non so dove le casse, però. Si sente, grazie Guido, grande. Quando la luce si spegnerà, il semaforo. E la febbre salirà più su. E chiederai di più, come uno schiavo eseguirò l'ordine di superarmi. Il destino dura una signora. Beh, bellissimo. Work in progress. Vorremmo, Guido, vorremmo che questo momento non finisse mai. Dentro questa armatura c'è il battito. Sì. Di un uomo che non ha. Bello, eh? Bello. Anche Guido Meda che canta mica male. No, ma bello. Grazie, Guido. Io lo preferisco come giornalista, Bonan, con tutto l'affetto. Questi tentativi musicali. Ma comunque è bello, è giusto provare. Poi io sono indie. Io sono indie. Questa cosa diventerà un tormentone per gli appassionati del motociclismo. Su questo non c'è dubbio, assolutamente. Ciao Guido. Ciao. A presto. Vabbè, dai. Siamo. Pronostico secco. Ma non abbiamo un collegamento? No, non risponde. Ci risponde. È De Luca che triste. Ma nessuno dei due ci risponde. Stiamo provando. De Luca, dai, bro. Ci abbiamo un altro minuto e mezzo. Prendiamo due telefonate. Dai, facciamo. Non facciamo in tempo. Dai, a che ora c'è il Falchi Gabbiano? Mancano ancora 4 minuti. Un minuto. Dobbiamo chiudere alle 28:30. Sono alle 27:30. Allora, sentiamo la sigla di Bonanno ancora. Più su, ancora più su. Corriamo più su. No, pronostico tipo, secco. Prossimo secco passa. Io penso passi il Real. Prevedo una buona partita del Napoli. Ti direi un 2-2, una cosa così. Però vediamo, dai. Speriamo io bene. Dico che succederà una follia e che il Napoli passa il turno. Su Napoli-Juventus poi non lo so. Ma non è neanche così tanta follia, eh. Cioè, può anche succedere. Io mi aspetto una notte folle e indimenticabile, perché certo, ne abbiamo tanta voglia e tanto bisogno. Certo, se adesso ci fosse Capuano e facessimo pronostici tutti e due, alla fine comunque vincerei io. Ciao Pierluigi, ciao ragazzi, ciao Giorgio, incredibile stasera, Giorgio De Luca, sciabolata morbida, Mertens, eccezionale, eccezionale. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari, lo mandiamo a casa che ha l'influenza, il nostro redattore.